music holds the secret. To know it can make you whole. It's not just a game of notes, it's the sounds inside your soul. The magic of a melody runs through you like a stream. The notes that play flow through your head like a dream. I sing this song for the common man and for the people in despair. I bring my song into the world and I sing it everywhere. The simple truth lies waiting here for everyone to share. So hold on, and I will take you there. Oh, Early Bird Special, tutti i giorni dalle 6 alle 7, questa è la prima colazione servita da Rock FM, con Chuck Bird fino alle 7 appunto, momento in cui lascerà questo studio nelle mani di Arielle e Frick Anthony con il pane, burro e rock and roll, ma per il momento sono ancora io a gestire il gioco qui dentro. Vi va di ascoltare i Foo Fighters? Io credo proprio di sì, questo è Next Year. Fighters, next year. Sapete che anche voi potete entrare in contatto con il vecchio Chuck Bird? Lo potete fare tranquillamente digitando sulla vostra tastiera, quella del computer, bird@radiorockfm.com. Un sacco di passerottini e passerottine mi hanno già scritto e alcuni mi hanno raccontato le loro storie di rock and roll. Potete farlo anche voi, io sono felicissimo di leggerle qui in diretta tutte le mattine dalle 6 alle 7 all'Early Bird Special. Vi va di ascoltare gli Spencer Davis Group? Scommessa vinta, questa è I'm a Man. the best rock and roll station in the world. It's Rock FM. Personal Jesus, un brano bello, in tutti i modi lo vogliate suonare, anche in versione acustica, anche rifatta da Johnny Cash, buttalo via. Ma come si scrive una bella canzone? È una domanda che si sono posti in tanti, compreso Steve Wynn, il leader della band californiana Long Riders, che ritroviamo a scrivere la prefazione di un bellissimo libro, in uscita in questi giorni, intitolato semplicemente Rock and Roll, è scritto dal mio amico Marco Denti. Ebbene, Steve Wynn ci racconta che ci sono cose che non si possono spiegare. E anche se può sembrare strano, sono proprio quelle che sarebbe particolarmente interessante cercare di spiegare. Lui dice che sono stato un fanatico della musica per tutta la vita. Scrivo canzoni da quasi 40 anni e incido dischi dal 1982. Eppure non riesco a spiegare perché una canzone sia giusta e l'altra no. È un mistero. Due canzoni possono essere quasi uguali. Avere lo stesso sound, avere anche gli stessi dannati musicisti. Insomma, possono sembrare la stessa canzone. Ma una scuote il mondo, ti cambia la vita, ti spinge a vendere tutto e andare a vivere in un'altra città. Mentre l'altra ti fa pensare ai piatti da lavare o a portare a passeggio il cane. Cosa fa di una canzone una buona canzone? Un mistero che neppure Steve Wynn and Long Riders è stato capace di dipanare. Stevie Winwood ci ha condotto magnificamente al termine di questa puntata dell'Early Bird Special. Early Bird Special che appunto lascia il posto ai restanti programmi da Rock FM. Nella fattispecie, fra pochissimi istanti, il pane burro e rock and roll condotto da DJ Ariel e Freak Anthony. A Chuck Bird non rimane far altro che ringraziarvi per l'ascolto e darvi appuntamento a domani mattina, mercoledì, sempre dalle 6 alle 7, sempre con Early Bird Special. Aloha!